Una buona serata da parte di Max Macchia, un buongiorno, un buon pomeriggio, eccetera, eccetera, per chi c'è invece ascolta dal blog 451 frammentisonori.noblogs. E poi ben ritrovati invece a tutti quanti, sia quelli che sono in diretta che quelli che sono in differita, visto che poi di differenze per l'ascolto ce ne sono relativamente, per chi invece sottoscritto Max Macchia fa invece ce n'è piuttosto tanta di differenza tra diretta e differita, ma questo vabbè, de gustibus, come dire. Questa sera 451 frammenti sonori mi porterà in un mondo estasiante, ecstasy in slow motion, ovvero come arrivare a una sorta di estasi, chiamiamola sonora per il momento, poi potrebbe anche arrivare un'estasi insomma più generale, dettata magari appunto dalla musica, che appunto diventa poi materia sensuale, anche extrasensuale, quindi una sorta anche di utopia, se vogliamo. Lo slow motion è questa questa quasi volontà appunto di far salire piano la cosa, una cosa che ha a che fare ovviamente anche con le droghe. Chiaramente molte delle cose che metteremo saranno influenzate da, perlomeno in termini anche così proprio anche potremmo dire fantasmatici, una sorta di altro che c'è dentro queste musiche, che quindi direttamente o indirettamente diventano materia alterante e di fatto poi alterano appunto attraverso gli ascolti, attraverso anche addirittura proprio la creazione, come Spiritualized, che aprono e che dovevano tra l'altro chiudere e dovevano rompere un po' la scorsa trasmissione legata soprattutto alla bucla e al femminile. Beh, quello non è stato fatto, visto che appunto Spiritualized aprono invece questa trasmissione di 451 frammenti sonori e aprono con una sinfonia spaziale, quindi ecco appunto mi riprendo direttamente il 451 della scorsa settimana, e portano un po' certe forme, poi di fatto insomma Jason Pierce e ex Spaceman 3, che tra l'altro dopo sentiremo appunto nella storica formazione, porta quello che è il primo disco di Spiritualized, che attraversava soprattutto l'idea di un pop sempre molto quasi a far cadere poi di fatto il tema principale, appunto, che è quello quello della divagazione pop in appunto viaggio che partendo da un pop che evidentemente non poteva che essere alterato, visto insomma l'esperienza degli Spaceman 3, visto anche appunto quello che passava per la testa a Jason Pierce e quello che è passato poi attraverso i vari dischi di Spiritualized. Uno dei punti più importanti, soprattutto che ci portano dentro questo concetto della ecstasy in slow motion, senz'altro appunto Symphony Space, porta a un certo grado di astrazione proprio il discorso psichedelico pop, con orchestrazioni che vanno appunto a cercare altri luoghi, si spostano evidentemente sotto alterazioni anche orchestrali, in questo senso appunto c'è il carattere sinfonico della faccenda, e poi questi quasi balbetti di Jason Pierce che vanno quasi a costruire appunto uno spazio immaginato, ma anche perché no, ridisegnato in termini anche appunto di attraversamento appunto astrale, quasi che riesce a fare nel lavoro. Ce l'andiamo appunto ad ascoltare per aprire questo 451 frammenti sonori, Ecstasy in slow motion, ovviamente da Radio Città Fujiko. Insomma, ovviamente in questo caso ci vuole ve lo dico dopo, di fare i bravi. Adesso rilassatevi e, come dire, sintonizzatevi, ecco, su quello che è uno dei suoni di sempre più lascivi e anche più divaganti, ecco, potremmo dire. Spiritualized dal primo disco, splendido disco tra l'altro, e dove appunto accennavo prima l'ecstasy in slow motion, che adesso ci andremo proprio invece ad ascoltare proprio dalle Spaceman 3, prevedeva così forse anche un momento di rilascio rispetto all'esperienza di Spaceman 3, quindi una canalizzazione più pop, se vogliamo, del linguaggio, comunque sempre deragliante di Jason Pierce, appunto ex Spaceman 3, anche se poi appunto in Symphony in Space invece si va a intravedere quello che poi verrà compiuto, soprattutto con Pure Phase, il secondo disco di Spiritualized, cioè quella sorta di deriva psichedelica che questa orchestrazione che sembra andare verso veramente la deriva, una sorta appunto di piattaforma spaziale, oceanica spaziale, una sorta di Solaris appunto che si va appunto a perdere definitivamente, per molti versi Pure Phase anticipato appunto da questa Symphony Space, da Laser Guide Melodies, anticipa e in un certo qual modo sviluppa anche il discorso di Spaceman 3, quello di Dream Weapon, uno dei punti diciamo fondamentali per quanto riguarda sia una un recupero potremmo dire del drone alla fine degli anni Ottanta, quando insomma di drone si era persa quasi la memoria, c'era insomma le grandi exploit anche commerciale appunto di Glass soprattutto, quindi sul minimalismo, ma quelle che erano le musiche appunto tra le musiche più allucinanti del Novecento, del secondo dopoguerra, e quelle legate appunto al momento ipnotico del drone, al veramente a vagare attraverso la musica, entrare, uscire e appunto perdersi in questo oceano appunto di suono che è il linguaggio del drone, ad esempio della Monte Young, ben riferito dentro a Dream Weapon appunto di Spaceman 3, un disco quasi underground dentro una discografia che forse non era già più alla fine degli anni Ottanta. Spaceman 3 da gruppo di culto diventa insomma uno dei grandi fenomeni di quegli anni, e facendo nascere lo shoegaze e quindi anche un nuovo modo di intendere le psichedelie, e poi appunto la battuta ripetitiva, ipnotica, se vogliamo, portata a una concezione di viaggio astrale, cosmicheggiante, psichedelica, quella ovvero dei Suicide, che viene appunto ricontestualizzata e anche reinventata appunto da Spaceman 3, dentro non soltanto a Dream Weapon, ma anche nei lavori precedenti. Diciamo che Dream Weapon, ecco, segna, perché recupera nel vero senso della parola quella grande utopia anche che c'è dentro il drone, e apre poi di fatto alle musiche degli anni 90 rispetto a quello che saranno appunto le ricerche in termini appunto di drone, di minimalismo che diventa elettronico a tutti gli effetti, di suoni estatici che diventano quasi iperbolici per molti aspetti, appunto come proprio in questa ecstasy in slow motion che ci andiamo appunto ad ascoltare, che dà il titolo tra l'altro appunto alla trasmissione di questa sera, 451 frammenti sonori. Basement Tree da disco meraviglioso e appunto come dicevo prima non tanto per citare, per tirare fuori insomma termini che tra l'altro sono anche un po' caduti in disgrazia come seminale, però di fatto qua seminato sul serio Dream Weapon durante tutti gli anni 90, anche certe forme se vogliamo è quasi l'inverso, no, dell'ecstasy, certe forme di isolazionismo addirittura hanno preso appunto il drone creato da Spaceman 3 e proprio questo soprattutto in Dream Weapon appunto. E soprattutto questa bipolarità quasi che è la faccenda Spaceman 3, da una parte appunto l'estasi però quella appunto del drone psichedelico e statico proprio per antonomasia potremmo dire e quello invece appunto dei suicide delle invece forme più scure se vogliamo quasi rumoriste che ci sono appunto anche dentro i lavori di Suicide, sia in termini di rock sia in termini appunto di quella sempre volontà sperimentale che c'è stata dentro il gruppo di spostare anche verso territori diversi le forme psichedeliche, quindi non soltanto il sogno ma anche l'incubo spesso, un pezzo appunto come Suicide la diceva lunga non soltanto in termini appunto di riferimento, di omaggio ai Suicide, ma anche in termini proprio sonori, una sorta di sprofondamento e una sorta appunto di incubo ipnotico che diventa ancora più allucinante perché non se ne riesce quasi ad uscire. Quindi in questo senso Dream Weapon ha anche questa doppia faccia e probabilmente la slow motion appunto l'estasi portata appunto al rallentatore, slow motion che è anche e soprattutto una tecnica cinematografica quella di togliere dei numero sensibile insomma di fotogrammi all'immagine tale da renderla quasi sembra quasi naturalmente rallentata, è uno degli effetti cinematografici ovviamente più difficile da utilizzare perché si cade ovviamente molto facilmente anche in banalità veramente e sciocchezze piuttosto kitsch però anche in momenti veramente poetici uno fra tutti potremmo ricordare il grande rallenti di Peckinpah in Wild Bunch ad esempio, il mucchio selvaggio quello, addirittura la violenza che viene, viene è portata a una sorta di poesia visiva che ha veramente dello stupefacente nel vero senso della parola. E forse c'era anche un certo Peckinpah dentro le musiche di Spaceman 3, o perlomeno mi piace immaginarlo così come viatico ulteriore appunto di questi due inglesi in cerca di emozioni piuttosto forti, di viaggi piuttosto insomma significativi, ovvero Jason Pierce che abbiamo trovato anche all'entrata appunto di questo Ecstasy in Slow Motion con i suoi Spiritualized e Pete Camber in Arte Sonic Boom che tra l'altro abbiamo anche più o meno in sottofondo con il suo progetto tante volte passato tra l'altro da queste parti 451 e Experiment Audio Research insieme tra l'altro a Eddie Prevost e anche insieme XM Eddie Prevost, quindi anche qua un gioco di specchi anche attraverso appunto quella che lì era l'impro, la psycho impro abbiamo anche trattato qualche settimana fa e poi Kevin Shield che diventa personaggio veramente hype in quegli anni, fino agli anni 80, cavallo primi anni 90, da gruppo fondamentalmente insomma sì, alternative rock potremmo chiamarlo, puntate neopsichedeliche neanche tanto accentuate e non di grosso calibro, quelle dei primi periodi, dei primi EP di My Bloody Valentine. E poi alla fine degli anni 80 iniziano a sperimentare anche loro, forse anche presi dalla voglia di sperimentare, che era nata da formazioni come Space Mentrie, come Loop, che sperimentavano appunto sulle psichedelie e sui suoni lancinanti. My Bloody Valentine cambiano veramente pelle e anche corpo sonoro. Inizia il feedback a diventare una materia fondamentale in termini sonori, e soprattutto diventa un suono estatico piuttosto allucinante, che arriverà a uno dei dischi altrettanto fondamentali come Dream Weapon, seppur Dream Weapon è un disco più di culto, mentre Loveless di My Bloody Valentine è anche un disco riconosciuto poi nelle storie del rock, insomma lo trovate tra i dischi importanti di sempre, anche se ormai con tutto questo classic rock sembra che non ci sia musica più dal 79-80 in poi, quindi se ascoltate varie radio insomma, in giro per l'Italia, ma non solo, tra l'altro anche in giro per il mondo, c'è soltanto il classic rock che arriva a un certo punto, poi già quando arriva il punk c'è qualche cosa che non torna a questi signori, quindi ma davanti insomma è roba recentissima, seppur stiamo parlando insomma di 25 anni fa, e andiamo a prendere proprio un lavoro tra l'altro a cavallo proprio tra il decennio 80-90, Glider in versione estesa, quindi anche con un esperimento che di fatto provano e riprovano in varie EP in My Bloody Valentine, fino ad arrivare appunto all'apogeo, al disco che porterà appunto diciamo anche a una sorta di eccesso, questo eccesso estatico, questo percorso appunto di My Bloody Valentine. E fermandoci un po' prima appunto rispetto a Loveless, andiamo a prendere appunto Glider in questa forma espansa, dove anche qua c'è una sorta di bipolarità e un'estasi però che potrebbe essere anche per certi versi dolorosa, o forse talmente dolorosa da diventare piacevole, una sorta di sadomaso feedback un po' paranoico, quello di My Bloody Valentine in questo Glider. appunto in una sorta di slow motion va a chiudersi Glider da parte appunto di My Blood Valentine, uno degli storici EP che prepara appunto a Loveless, al disco che porterà appunto le estreme conseguenze, come accennavo prima, il discorso del noise estatico, dello shoegaze, ovviamente contestualizzato rispetto a un mondo rock che sia per quanto riguarda Spaceman 3, ovviamente, sia nella caratterizzazione di Sonic Boom, forse più sperimentale rispetto a quella di Jason Pierce con i suoi Spiritualized e a quella dei My Blood Valentine, beh, però per tutti era molto forte, ancora un'estetica e ancora un disegno anche molto ben definito rispetto al rock, seppure il rock appunto e con quella inquietudine e con quello non essere appunto classico, quindi mi riferisco anche a quello che accennavo prima, anzi a quel rock che è sempre stato probabilmente deragliante, quindi appunto un immaginario stradaiolo come stradaiolo da incubo, però come quello dei Suicide, una sorta di apocalisse avvenuta e vissuta, quello di Sister Ray di John Cale insieme ai Velvet Underground, quello di certe musiche cosmiche che andavano a impattare con elettronica e con esperimenti insomma veramente allucinanti, e anche tutti quei momenti appunto che si svilupperanno poi nel corso degli anni 80, anche per quanto riguarda quel sottobosco che ancora riusciva a coltivare queste strane droghe sonore e quindi a portarle poi anche a una certa fioritura, appunto, potremmo dire, scusatemi insomma la similitudine un po' così, che avverrà appunto alla fine degli anni 80, come abbiamo sentito anche per Mambala di Valentine oppure con The Weapon, quindi un rock che senza soluzioni di continuità va a trovare anche la Monte Young appunto attraverso Sister Ray appunto di John Cale, che era stato allievo della Monte, e oltre che essere stato allievo aveva suonato nel teatro della musica eterna appunto della Monte Young prima di passare ai ben più famosi Velvet Underground, quindi forse fino anche a un certo periodo, il periodo dello sviluppo poi soprattutto le psichedelie rock di taglio sia americano che inglese, perché no, ma abbiamo visto anche poi che c'erano anche faccende insomma legate all'Italia, insomma c'era una sorta di internazionale di questo rock che attraverso le psichedelie si trasformava in altro. Beh, e ovviamente le avanguardie non andavano a essere un'altra cosa, ma anzi diventavano, come dire, materia di studio, proprio, ma addirittura materia talmente viva appunto da tuffarsi interamente per appunto generazioni che poi riprenderanno appunto a distanza di 20 anni circa appunto quell'afflato appunto psichedelico sperimentale in appunto Spaceman 3 o My Bloody Valentine. Dovessimo fare quadrare un cerchio, che ovviamente non ci interessa far quadrare più di tanto, però per dare un'idea di personaggi che hanno iniziato più o meno nel periodo di cui stiamo trattando questa sera, in questa Ecstasy in Slow Motion, forse vorrei rambarci un po' dopo, anzi senza forse, rispetto a Jim O'Rourke, lui verso la fine degli anni 80, l'australiano, appunto rambarci, ma comunque con affinità anche rispetto appunto a Jim O'Rourke, che inizia proprio partendo da suoni che erano direttamente influenzati da Dreamweapon. Prima accennavo alla faccenda anche d'altra faccia, della Dark Side, che tra l'altro è anche uno dei progetti di un Spaceman 3 momentaneo, ecco. Però vabbè, a parte questo incrocio che c'è stato, e da Dark Side in termini appunto metaforici, in termini quindi di suono psichedelico che diventa appunto anche una sorta di incubo appunto, e beh, Jim O'Rourke prende da Dream Weapon al lato isolazionista, se vogliamo, e lo sviluppa tra l'altro anche in formazioni importanti in questo senso, tipo l'Illusion of Safety, o con dischi insomma a proprio nome come Terminal Pharmacy, però soprattutto Jim O'Rourke farà questo in termini diciamo rock, statici rock, Gastro e Soul, quindi inventerà insieme a Tortoise compiutamente il post rock. E dentro appunto sia Tortoise che Gastro e Soul c'era questo questo vagare dentro appunto le psichedelie, e dentro appunto quel rock che si voleva fare diventare, o si stava traghettando insomma in una altrove, ecco, ritrovando appunto anche varie avanguardie eccetera, varie sperimentazioni. Sun era il progetto di Orhan Barci, legato anche egli a una sorta di appunto rock diverso, rock appunto che andava verso altri lidi, appunto avendo una forte immaginazione comunque statica, psichedelica, e i due si sono incrociati poi per molti versi, era quasi inevitabile, poi con le varie sperimentazioni che hanno fatto, soprattutto elettroacustiche dagli anni zero in poi, e nel 2015 per il lavoro che appunto chiude questa sera Ecstasy in Slow Motion in compagnia di Max Macchia, Beyond, che andiamo a trovare appunto dal secondo lato, così partiamo la faccenda vinilica, seppur lo mando in file, così per chiarezza, e dove appunto forse si compia anche o viene dato un ulteriore insomma passaggio, potremmo dire, a questo modo di intendere la faccenda estatica, la faccenda vagamente psichedelica, proprio perché si vuole appunto aprire a tante suggestioni appunto, e perché no, allucinazioni come appunto questa Beyond. Vi rimando a mercoledì prossimo, ciao, e vabbè, che come si dice a Roma, che ve lo dico a fa, fate i bravi, no? Ciao.